Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Quando comincia la sigla del riposo del guerriero, sento questo inizio, poi epico, no? E mi immagino io al rallentatore che corro, poi da sbattere contro qualcosa. Le 10:09, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia il riposo del guerriero e oggi, cerchiamo di circondarci di cose belle, perché nella vita è piacevole sicuramente, ma anche fondamentale cercare di avere il bello intorno a noi, non soltanto e il bello delle persone sicuramente, che sono fondamentali, ma il bello anche degli oggetti, delle cose, circondarci di design. Lo facciamo sicuramente perché c'è il Salone del Mobile a Milano, che ormai sta per concludersi, ma che raccoglie veramente tantissimi designer da tutte le parti del mondo. Ci sono molti studenti veramente da ogni parte del globo e si respira un'aria bella davvero. Quindi vorrei in qualche modo cercare di trasmettere anche a voi questa energia. E poi perché il bello intorno rende piacevole la vita in generale, anche nei momenti più difficili. E oggi quello che vorrei riuscire a scoprire insieme a voi è se circondarsi di bello sia possibile. Secondo me lo è, perché ormai il design è alla portata di tutti e di tutte le tasche. Oggi lo scopriremo e comunque lo ascolteremo per voce dei protagonisti sicuramente, e non soltanto. Mi invito come sempre a raccontare anche la vostra esperienza, se il bello c'è intorno a voi e che cosa c'è di bello intorno a voi. SMS 349 238 6666, e il numero verde, perché alle 11:30 giocheremo con il mistero in 24 minuti. Per voi, come al solito, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su librerierizzoli.it. dovrete risolvere il mistero ascoltando gli indizi musicali. Più indizi ascolterete, più però il premio si abbasserà e la risposta potrà essere, come sempre, una delle notizie della settimana oppure un personaggio conosciuto. Siamo pronti? 10:10, e parlando di bello bisogna ascoltare qualcosa di bellissimo. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful. Che iniziare con James Blunt, You're Beautiful, e mi sono dimenticato però prima di dare il numero verde per prenotarvi per il mistero in 24 minuti. 800 24 00 24. Irene Privitera, ciao, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica a te e a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Inviata per noi del Salone del Mobile di Milano. Allora, innanzitutto Irene, io credo che in questi giorni tu abbia avuto così il desiderio di rimanere al Salone. Il Salone intanto era grandissimo quest'anno, enorme. Gigante. Esatto, sì, quindi sì. Il primo giorno serviva un attimo così ad orientarsi, anche se è organizzato molto bene, però è veramente enorme lo spazio. Ma vi hanno dato tipo dei letti di design così per dormire? No, guarda, perché immagino bisognasse dormirli per forza. Ti dico cosa ci hanno dato. Sì. Noi di Radio 24 abbiamo una bellissima roulotte che in realtà serve come postazione, no? Certo. Con internet, il telefono, tutto quanto, però non devi immaginartela come una roulotte vera, perché chiaramente non c'è niente, c'è soltanto la scrivania e gli strumenti del nostro mestiere, se non che l'unica roulotte particolare di tutto il Salone del Mobile è proprio quella di Radio 24, perché dentro, non so la marca e quindi meglio così perché non si possono dire, in radio c'è un enorme ciclette. Si fermano tutti a farci le foto, i bambini vogliono salire sulla cicletta. Ecco, questa è l'unica cosa che c'è. Non è comoda. Io la uso come attaccapanni, cioè non è un pezzo di design. Vabbè, comunque sia, è un modo per in qualche modo anche farsi notare. In un mondo in un mondo dove si fa notare tutti, anche il pubblico, perché è veramente diversissimo. Io vedo persone stranissime che girano per Milano in questo periodo. Sì, e poi guarda, anche al Salone, quindi non soltanto al fuori Salone, io ho vissuto il Salone in questi giorni, c'è un'internazionalità veramente ad altissimi livelli, ma non soltanto gli espositori, la stampa, ma soprattutto i visitatori. Anche oggi è il giorno di apertura al pubblico del salone, ma il salone satellite, che è diciamo una parte particolare in cui espongono i designer più estrosi, quelli delle scuole di tutto il mondo, era aperto al pubblico sin dal primo giorno, e ti dico davvero una grande varietà anche nel pubblico, molto infatti interessante. Immagino. Allora fai un bel respiro, Irene, perché dovrai inalare, diciamo così, tutto il design che hai visto e poi raccontarcelo tra pochissimo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Okay. No, mi dicono di no, scusami. Allora vado avanti, cominciamo subito con la prima. Okay. Allora, tu hai incontrato tante persone, quindi vediamo un po' di cominciare. Con chi iniziamo? Guarda, iniziamo entrando nel vivo proprio dell'argomento del programma, no? Il bello è possibile. Quindi diciamo che tutte le interviste che ho fatto in questi giorni, che ascolteremo, sono proprio su questo argomento in particolare. E cominciamo dalla direttrice marketing di Magis, che è un'azienda che lei ama definire colorata. Cosa fa Magis? Fa oggetti in plastica, praticamente di arredo, complementi d'arredo, e diciamo va assolutamente contro l'omologazione che c'è oggi come oggi, mi diceva proprio la direttrice marketing, nelle nostre case, che sono un po' tutte uguali, con gli stessi colori, un po' il beige, sai, questi colori che vanno tanto adesso. Allora, come dire, una ribellione a questa mancanza di colore con un'esplosione invece di colore. Però rientriamo appunto nel bello e possibile, ovvero al salone del mobile tante volte ci si riempie gli occhi, però la tasca piange, come si dire. Svuota. Esatto, si svuota oppure non può neanche, non ha neppure la possibilità di svuotarsi. Ecco, sentiamo che cosa ci dice invece Barbara Minetto su un prezzo accessibile di qualche complemento d'arredo. Sono delle sedie colorate, cito una per tutte, la sedia di Jasper Morrison Aircher, che è in produzione ormai da 11 anni, in una gamma di colori vastissimi, perché ce ne sono 12, e uno con 80 euro prende una sedia giovane, colorata e fresca, e soprattutto una sedia che supera tutti i test di resistenza, perché si dimentica molto spesso che il consumatore viene, tra virgolette, a volte ingannato. Il prodotto costa poco ma dura poco, il prodotto costa poco e non ha superato i test di resistenza. Di conseguenza, chi tutela il consumatore per questa, diciamo così, poca attenzione nei confronti della sicurezza? Ma tornando al discorso dei prezzi, abbiamo degli oggetti anche per la casa, gli specchi vanno al pubblico a 60 euro, o gli specchi da parete, perché ovviamente dopo il cliente, l'ascoltatore non li vede, oppure anche dei, non so, i portabottiglie, gli scolapiatti che ti arredano la cucina, magari una cucina un po' vecchia, ci metti un attimo di colore spendendo 30 euro. E l'occhio alla sostenibilità come va? Quest'anno presentiamo proprio una sedia di Philip Stark, che è il primo progetto di Philip Stark per Magis. È una sedia con materiali totalmente naturali e totalmente riciclabili. Di conseguenza le gambe sono una sorta di piedistallo e sono prodotte con una plastica che deriva dal mais, e la seduta è un materiale naturale, una canapa, e viene stampata, e si ottiene questa sedia, ripeto, totalmente naturale ed interamente riciclabile. Ecco, mi auguro, Irene, che quella sedia con le gambe, con questa plastica ottenuta dal mais, non sia come le borse della spesa che ci stanno dando ultimamente, che messe al sole si sfasciano. No, guarda, ho provato, tra l'altro. No, sto scherzando, perché ovviamente. Sai che si può anche così sedere sui letti, sulle poltrone, si può provare tutto qui al Sì, beh, del certo, mobile. Ovviamente sì, quindi insomma, l'ha detto anche prima che passano tutti i test di resistenza, che è fondamentale ovviamente. Tra l'altro immagino che l'ecosostenibilità sia stato un elemento fondamentale per il salone. Ne parliamo tra poco dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Irene Privitera dalla roulotte del mobile di Milano. Ti è piaciuta questa della roulotte? Come no, dovresti, certo, venire qui a video. Non ce la faccio. È una delle attrazioni del Salone del Mobile 2011, la roulotte di Radio 24. Ecco, ecosostenibile. Allora, a proposito di questo, chi è che hai incontrato ancora? Perché so che questo è un argomento un po' toccato da tutti. Sì, assolutamente, proprio un filo conduttore. Guarda, rimanendo sempre su Magis, ma spostandoci a sentire la voce direttamente di un designer, ti parlo di Alessandro Mendini, che è uno storico designer italiano, che ha progettato, tu saprai, nel 78 la poltrona di Proust, che è quella poltrona, sai, con tutti gli intarsi, un po' settecentesca. Questa poltrona è stata, come dice lui, un progetto trasformista. Cioè la resa alta 4 metri è fatta di mosaico, l'ha fatta di carta pesta per il carnevale di Viareggio, l'ha fatta in ceramica, in bronzo ultimamente, e adesso per Magis l'ha creata in plastica rotazionale, quindi estremamente ecosostenibile e ancora una volta estremamente comprabile. Ascoltiamolo. Costo relativamente basso. Certo che essendo un oggetto di plastica rotazionale non costa come quella fatta a mano, ecco, costa infinitamente meno. Ti sento soddisfatto quindi di questo salto, come dire? Sì, mi piace e mi interessa, perché veramente posso dire che gli si introduce un aspetto di popolare, anche di oggetto da giardino. Sì. Queste che vediamo qui esposte sono, come dire, in unica tinta. Sì. Ne ha pensato anche qualche altra versione? Sono in tinta unica, che saranno più di queste, poi ce ne saranno forse un paio di lucide e poi quella policroma stiamo studiando. Policroma nel senso puntinata. Di puntinata, quindi che ritorna un po' a quella in tessuto. Che simula quella del tessuto e è molto difficile tecnicamente, si sta lavorando sopra. Quindi alta tecnologia anche oltretutto nella produzione. Questa è alta tecnologia. Ecco, quindi un oggetto che è diventato bello, che è diventato decisamente accessibile dal punto di vista anche del prezzo, ovvio. Assolutamente, poi magari non tutti vogliono, sai, la poltrona di Proust a casa propria, ma magari vogliono degli oggetti colorati, diciamo più semplici, quelli per la cucina mi vengono in mente, o le sedie soprattutto, che vanno tantissimo, quest'anno ci sono tantissimi espositori proprio che diciamo si sono concentrati tanto su questo oggetto. In particolare Cartel, che poi è un'azienda famosissima, ha compiuto 60 anni, l'azienda lo scorso anno, mi raccontava la direttrice marketing, giovanissima tra l'altro, soltanto 32 anni, Lorenza Luti, che praticamente ci sono dei grossi investimenti iniziali chiaramente in un'azienda del genere, e questo poi porta a una diluizione del prezzo sul prodotto e quindi a un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ovviamente anche qui occhio attentissimo alla sostenibilità, il 98% del prodotto può essere riciclato e anche il processo di produzione è molto importante, perché è pulito al 100%, senza scarti ed emissioni. Tutto quello che viene messo nella macchina, lei mi spiegava, esce poi sotto forma di sedia, quindi non ci sono emissioni. Per quanto riguarda ancora i prezzi, che credo sia la cosa più interessante per gli ascoltatori, sentiamo proprio Lorenza Luti. Abbiamo ad esempio una delle nostre lampade principali, la Take, che vendiamo a 52 euro, abbiamo i vassoi, le ciotole, ma anche la Master, che è l'ultima sedia di Philip Stark, icona ormai già della nostra produzione, che viene venduta in Italia a 130 euro. È una sedia fatta con una tecnologia pazzesca, un'innovazione dietro che ci abbiamo messo 3 anni a fare, e firmata da comunque uno dei più famosi e geni del design, che è Philip Stark, ha un ottimo prezzo. Grande innovazione tecnologica anche per oggetti che poi magari visti dal profano sembrano, come dire, tra virgolette, facili da fare. Sì, soprattutto negli ultimi 15 anni il nostro proprio intento è, su ogni prodotto, di avere una grossa sfida tecnologica, che sia dal punto di vista del design, dei materiali, dell'innovazione tecnologica. Cerchiamo di fare, di portare al pubblico sempre qualcosa di nuovo. Ad esempio, negli ultimi 10 anni siamo stati i primi a portare i materiali trasparenti all'interno della casa, con l'apporto del policarbonato che veniva usato in altri settori, l'abbiamo portato nella casa. Abbiamo presentato nel 99 la prima sedia trasparente, la Marie, che ad esempio va in vendita a 150 euro, quindi con un prezzo fantastico. dal punto di vista dell'ecosostenibilità, Cartel, che scelte ha fatto? Beh, Cartel sicuramente non può che essere assolutamente sensibile all'ecosostenibilità. Per noi è molto importante, per quanto riguarda le materie plastiche, utilizzare materiale plastica all'origine di prima qualità, di primissima qualità. Utilizzando la primissima qualità, il prodotto è assolutamente buono, ecosostenibile e il 98% del prodotto può essere riciclato. Ecco, quindi Irene, abbiamo visto ecosostenibilità sicuramente, prezzi più bassi e quindi davvero il bello finalmente è più possibile del solito. Sì, diciamo di sì. Quella è la direzione dove stiamo andando. Allora, adesso per alcune case sicuramente sì. Poi ci sarà sempre il bello è impossibile per molti. Ma quello è piacere, anche noi ci riempiamo gli occhi e poi compriamo quello che possiamo. Assolutamente comprare. Sì, godiamo quello degli altri, noi ci facciamo invitare magari a casa di qualcuno che ha e magari ci sediamo sulle poltrone più costose. Grazie intanto Irene davvero per quello che hai fatto, poi ci sentiamo più tardi probabilmente, ancora perché so che hai incontrato molte altre persone. Grazie ancora. Ok, grazie a voi, ciao. Stefano. Buona giornata. Ciao Irene, andiamo avanti, parliamo di bello e possibile sicuramente, perché il design, adesso Irene ci ha fatto ascoltare alcuni momenti dedicati a case che producono sedie, però in realtà il bello è intorno a noi anche negli oggetti della quotidianità, e c'è con noi Stefano Giovannoni. Buongiorno Stefano, buona domenica. Buongiorno, buona domenica. E intanto grazie, spezzino, però ormai milanese d'adozione, sì, no Stefano? Da oltre 20 anni. Quindi. Senti, allora nel nostro palazzo del Sole 24 Ore qui, voi siete designer, grandi designer, perché credo tra l'altro che alcuni tuoi oggetti sono esposti al MoMA, vero? E tu sei rappresentato, ognuno di voi è rappresentato con un oggetto. L'oggetto che rappresenta te è il merdolino. Adesso che effetto ti fa questa cosa? Il merdolino è stato un oggetto molto interessante perché ha espresso il diffondersi del design a tutti gli oggetti d'uso comune. Allora spieghiamo. Anche lo scopino da bagno. Ecco, l'hai detto tu, ovviamente, che cos'è? È uno scopino da bagno disegnato per Alessi, sì. Che però sembra una pianta. È un vaso, sì, no? È uno scopino da bagno che ho disegnato nel 1993, se non sbaglio, e sì, è una piantina che soltanto quando apri scopri che si tratta di uno scopino da bagno, ecco. Per cui hai una sorpresa, diciamo, piuttosto interessante. Ecco, un oggetto del quale non si poteva parlare fino a qualche momento prima, no? Guai, sì, credo. Diciamo che comunque il nome, la comunicazione ha fatto la sua parte nel successo di questo prodotto. Sì, davvero, però devo dire anche i tuoi disegni, le tue linee che sono straordinarie e molto rotonde, devo dire che tutto è sempre rotondo, almeno negli oggetti della quotidianità. Sai, ho lavorato molto sulla plastica, per cui un linguaggio di forme organiche è molto funzionale anche alla tecnologia, insomma, con cui noi lavoriamo. In questo caso la plastica si presta molto a queste forme arrotondate. Senti, quando pensi a qualcosa che appunto dobbiamo usare quotidianamente, tu hai disegnato di tutto. Sì, io credo sono forse il designer più eclettico, perché ho disegnato veramente dai gelati all'automobile. Esatto, le bilance pesa persone, ecco, i casalinghi, credo di aver disegnato praticamente 300 oggetti, per cui ci sono un po' tutti gli oggetti per la casa e la cucina. Ecco, a cosa pensi? Cioè, c'è qualcosa che gli dà l'ispiro? So che è una domanda scema, però sono curioso di capire se c'è la partenza qual è. Non so, prendi un oggetto simile in mano e cominci a guardarlo, a passarlo da una mano all'altra. Faccio un esempio: devi disegnare un salino e quindi prendi un salino comune e cominci a passartelo di mano in mano e cerchi di vederlo in un altro modo, o come fai? Se hai un modo, non lo so, adesso mi sto inventando. Dipende sempre dal contesto nel quale operiamo, dall'azienda con cui lavoriamo, eccetera. È chiaro che l'oggetto oggi, cioè tutti hanno in casa un salino, per cui tu devi riuscire a creare qualcosa di diverso, insomma, perché non compriamo più gli oggetti per la necessità primaria, ma li compriamo perché ci comunicano delle cose, emozione, dei messaggi, insomma, sì. Delle emozioni, sì. Per cui cerchiamo con gli oggetti oggi di comunicare. Ecco, tu credi che il fatto che adesso il bello sia ancora più accessibile, no? Rispetto al passato. E, credi che faccia un po' perdere di fascino il bello perché ne abbiamo finalmente, forse ne abbiamo tanto intorno a noi, o comunque invece questo serve a migliorare il gusto? Ma no, questo oggi serve continuamente a migliorare il gusto, oggi c'è una grande attenzione da parte del pubblico, perché un tempo si delegava un po' all'architetto. Il pubblico non era così a fondo nel problema dell'arredo della propria casa, degli oggetti. Oggi un po' tutti, c'è una grande comunicazione, un grande interesse su queste cose, per cui tutti i quotidiani hanno supplementi sugli oggetti, insomma c'è un grande parlare, una grande attenzione sempre crescente da parte del pubblico per gli oggetti che ci circondano, che poi dicono tanto anche sull'identità di chi li acquista. Sicuramente, raccontano qualcosa di noi, questo è certo. Stiamo andando verso qualcosa oppure si sta sperimentando un po' tutto? Ma diciamo che in questo periodo stiamo vivendo un po' la reazione al minimalismo, dopo tanti anni di un percorso che è andato dal modernismo ed era approdato poi a questo al minimalismo, che era diciamo un po' forse riduttivo rispetto al potenziale che i linguaggi espressivi avevano. Oggi viviamo invece in un'esplosione di linguaggi e di creatività veramente a 360 gradi, per cui in teoria va bene tutto, dall'etnico al diciamo in un mondo globale è molto interessante anche percepire il linguaggio come un campo di sperimentazione dove possiamo veramente mescolare culture diverse, stili diversi, e ogni progetto può essere mirato in una direzione di linguaggio anche particolare. Ecco, volevo chiudere con te con la domanda sui colori. Tu li usi tanto e se davvero ancora l'idea è quella di usare colore o se ci si sta tornando a un po' un'uniformità o comunque dei colori primari e poi gli altri un po' più lasciati indietro. Ma io credo che sia molto interessante vedere anche il colore legato ai cambiamenti che ci sono nel nostro contesto. Io ho lavorato tanto sul colore negli anni 90, in cui c'era un periodo molto felice nella nostra economia. Sì. Nella fine degli anni 90, con la prima crisi economica, la guerra in Iraq, eccetera, c'è stato un momento di ritorno al bianco e nero, di esclusione del colore. Oggi con la globalizzazione il colore ritorna sotto altre forme, per cui è interessante capire anche come si coniuga il colore con i linguaggi espressivi, e insomma comunque tutto questo fa parte della nostra tavolozza, e noi un po' come cuochi cerchiamo di combinare gli elementi del nostro lavoro. Il colore è un fatto essenziale. Grazie per l'emozione che ci regalate ogni giorno, tu e tutti i designer insomma che lavorano nel mondo e che ci fanno godere delle cose belle, perché come dicevi tu, davvero anche toccare un semplice oggetto può essere un'emozione che ci rappresenta. Grazie Stefano. Grazie Giovannoni. A voi, buona domenica. Davvero buona domenica e qualche comunicazione, poi torniamo a parlare ancora di design come sempre italianissimo. Il riposo del guerriero. Arrivano anche i vostri messaggi, il numero lo ricordo 349-238-6666. C'è Mary che scrive c'è molto di bello, peccato che e invece a volte il bello non è negli esseri umani. E quindi allora io volevo rispondere anche un altro sms che mi ha così lasciato un po' perplesso, lo volevo fare però col prossimo ospite che è Paolo Cattaneo. Ciao Paolo, buona domenica, grazie. Ciao Stefano, buona domenica anche a voi. Paolo è amministratore delegato per Momo Design che rappresenta il design sotto tanti aspetti della nostra quotidianità. Cito i caschi, per esempio, che ormai vediamo tanti. Sì, diciamo che la forza nostra è questa capacità di declinare design su vari prodotti. Il casco è stato sicuramente il primo prodotto che ci ha dato grande visibilità, ma anche gli orologi, le scarpe. Ecco, perché forse prima, come sempre, diceva prima anche Giovannoni, no? Il fatto che non si pensa agli oggetti comuni, quelli quotidiani, non si pensa che possano essere loro già un elemento distintivo. E il casco forse prima non c'era arrivato nessuno a farlo in quel modo, con un materiale ad esempio particolare, che era bello, è bello solo da toccare. Ma guarda, il ragionamento che noi abbiamo fatto per cercare di creare nel settore della moto un qualcosa di innovativo, scusate, è proprio quello di partire analizzando il mercato, perché per noi il mercato è molto importante, nel senso che il design del prodotto alla fine è il risultato finale, è sicuramente importante, ma noi facciamo proprio un procedimento all'inverso, nel senso che sul mercato che cosa il mercato richiede, quali sono le cose che ancora non sono state fatte, proprio per andare a proporre un elemento di novità, di innovazione, per cui il casco creato secondo dei criteri non strettamente legato alla moda, alla moto, ma più alla moda, al fashion, è stato poi un'idea, una visione vincente questa. Ecco, anche perché gli oggetti comunque rappresentano se stessi, rappresentano la propria personalità, uno sceglie anche in base a come si sente, immagino che funzioni anche questo meccanismo. Allora il messaggio mi ha lasciato un po' perplesso, firmato da Nina, dice: ah, ma fatemi il piacere, è ridicola questa intervista, e parlava, probabilmente si riferiva alla chiacchierata con Giovannoni, io non so dove sia il ridicolo, però mi faceva pensare, fondamentalmente si diceva che il design fa parte della nostra vita quotidiana e che ormai tutti cercano il bello nelle cose. Tu cosa pensi, Paolo? Beh, rappresentando Momo Design sicuramente sarai d'accordo, ma hai un'opinione del perché una persona invece possa trovare un po' ridicolo in qualche modo la ricerca del design nelle cose, della quotidianità? Ma guarda, io quello che posso dirti è che noi siamo fortemente legati al mercato, nel senso che questa esigenza di bello un po' per tutti è un'esigenza del mercato che in questi ultimi anni è cambiato, nel senso noi stiamo oggi incominciando a uscire da una crisi per cui le esigenze della gente sono cambiate, magari prima si spendeva senza dare tanta attenzione, oggi c'è più attenzione, il consumatore non va ingannato, per cui vuole magari la ricerca del bello, vuole un oggetto bello senza spendere troppi soldi. E quindi la ricerca, l'innovazione va in questa direzione. Non dimentichiamoci che oggi la tecnologia ci permette anche di arrivare a sviluppare dei prodotti che possono essere magari meno costosi e più accessibili, ma con dei contenuti elevati. Ecco, quindi mettendo dei paletti, i paletti sono sicuramente qualità, giusto? Sì. Design indubbiamente, ve lo stiamo dicendo tra la puntata, perché comunque su quello ci siamo, e prezzo poi, cioè credo che comunque sia vincente il prezzo accessibile. Ma assolutamente, questo è fondamentale, noi l'abbiamo notato proprio nei nostri prodotti in questi ultimi anni, il fatto del posizionamento, ci sono dei prodotti che rispettano, cioè hanno una percezione sul mercato fino a una certa soglia, oltre la quale poi non viene percepito dal cliente finale, per cui il posizionamento, lo studio dei materiali, il colore, è tutto collegato, è un marketing mix che costituisce poi il successo del prodotto stesso. Ecco Paolo, per chiudere, voi avete il centro stile, sì. In cosa consiste? Poi volevo anche chiederti, i giovani designer cosa devono fare, come possono presentarsi, se possono presentarsi, insomma come si fa poi a, dopo aver studiato, a iniziare a fare il proprio mestiere? Ma guarda, io quello che volevo dire era che ho una interpretazione, una visione un po' più manageriale del design, nel senso che il designer è sicuramente per noi il centro stile interno, è sicuramente il fulcro, il perno dell'azienda, ma l'esperienza nostra maturata arriva dal mercato, cioè io voglio sottolineare questo aspetto perché fa parte proprio della mia esperienza, nel senso che io ho viaggiato, ho vissuto all'estero anche per diversi anni. E che cosa ho portato a casa? Ho portato a casa proprio l'esperienza sul negozio, sul punto vendita, quindi quali sono determinati gusti che vanno in determinati paesi e altri, per cui il contatto col mercato per noi oggi è fondamentale. Quindi si parte proprio dal basso, diciamo, dall'acquirente. Sì, dal basso, nel senso che si studiano le esigenze, certo. che cosa può interessare, che cosa è un giovane designer che volesse introdursi nel mercato per fare la propria attività, dopo aver studiato, si presenta come fa? Si presenta con dei disegni, con delle idee, come? Sicuramente la strada più giusta è quella di fare esperienza, nel senso che oggi nessuno nasce imparato, per cui bisogna fare esperienza, bisogna cercare di fare degli stage, Noi ad esempio collaboriamo anche con il Politecnico, per cui appena abbiamo occasione inseriamo degli stagisti che ci seguono e si affiancano sui progetti che vengono portati avanti nel momento in cui questi stagisti entrano a lavorare, per cui si tocca con mano proprio lo sviluppo vero e proprio del progetto dall'inizio alla fine. Ecco, quindi insomma sperimentare, guardare, imparare facendo, e poi esatto, ci sarà il momento, non dico per tutti, proprio qualcuno sicuramente riuscirà a emergere, le idee poi arrivano. Grazie Paolo Cattaneo, buona domenica. Grazie a voi, buona domenica. Amministratore delegato per Momo Design, e torniamo da Irene Privitera. Eccoti. Rieccoci Stefano, rieccoci. Ti abbiamo fatta riemergere dalla roulotte. Allora, sì, tu, esatto, sempre qui. Dal Salone del Mobile hai cercato, insomma, per noi un po' di voci, anche per capire se il bello è possibile, però stiamo ascoltando che in effetti il bello è possibile. Secondo te c'è ancora molta Italia, Irene, in quello che hai visto? Sì, secondo me sì. Però non è, come dire, prevalente, sarebbe un'omissione dire il contrario, perché l'internazionalità, come ti dicevo prima, è evidente, lo dimostra il fatto che al Salone Satellite, come che ti citavo prima, quindi dove espongono i designer dalle creazioni più particolari di tutto il mondo, come sai, poi a un certo punto ha proprio una premiazione, e quest'anno ha vinto una designer tedesca, secondo posto ancora un tedesco e al terzo una serba. Esponevano chiaramente anche italiani bravissimi, ci mancherebbe altro. Per esempio, proprio per quanto riguarda gli italiani, sì, volevo citarti questo studio, si chiama Lago Studio, è un laboratorio nel cuore di Milano, questi ragazzi espongono in Brera, in un appartamento tra l'altro, e quindi è una cosa un po' particolare perché l'intero appartamento arredato con le loro creazioni. Una situazione un po' bohemienne, direi. Esatto. E infatti era un po', sai, si respirava un po' quest'aria nel loro stand, tra l'altro uno dei più belli secondo me. Lago Studio praticamente riunisce designer e creativi sia italiani che stranieri, che come ti dicevo appunto espongono in questo appartamento, e sanno addirittura, proprio loro mi hanno detto, noi siamo quelli del bello è possibile, quando gli ho spiegato che cosa dovevamo fare, perché praticamente hanno creato, e adesso lo ascolteremo proprio dalla voce di Daniele Lago, che è il titolare di questa azienda, under 40, giovanissimo anche lui, e questo armadio non armadio che si chiama Evolà, e praticamente è un armadio di tessuto. Io ogni volta che mi stanco di queste ante, magari le ho fatte rosse, le ho fatte fucsia, le cambio con un prezzo chiaramente bassissimo, perché stiamo parlando di stoffa, quindi non di alluminio o di legno, certo. E la loro idea è quella di vestire la casa prima o poi, farla tutta così, e quindi cambiarla quando vogliamo. Sentiamo. Sì. Credo che sia molto importante che il design comprenda i bisogni del suo tempo, e in questo senso vada in certe direzioni. Quindi per me insomma, l'approccio è sempre quello di creare delle cose che siano anche fruibili dalla gente, ma non solo in termini economici. Questo prodotto che presentiamo, che si chiama Etualà, che in sostanza facciamo lavorare il tessuto in maniera anomala perché viene teso e risulta quasi una superficie rigida. Partiamo dal principio, si tratta di un armadio o non armadio? Si tratta in realtà, in questo caso, che è lo primo step, di un armadio, ma in realtà attendere, e come secondo e terzo orizzonte, arriverà ad essere una cucina, un bagno. Noi vorremmo vestire le case, e quindi ci saranno questi tessuti che richiudono lo storage, che fino a prima era fatto di legno, di vetro, di pezzi laccati e bla bla bla. Cosa comporta questo? Allora, questo intanto è un beneficio assoluto sull'ambiente, perché riduce in maniera drastica l'utilizzo di materiale, di materie prime. In seconda battuta ha un impatto economico super, perché un armadio ad esempio da 3 metri insomma verrà dai 2.000 ai 2.400 euro, che per il nostro posizionamento è un prezzo molto molto competitivo, ok? Permetterà una fruizione diversa anche del senso dell'oggetto, per cui a livello di appenderia abbiamo dei tubi girevoli che ruotano e ti vengono incontro. L'accessibilità oggi non è una visione solo economica, l'accessibilità è una visione che ti permette di comprendere e di utilizzare molto bene le cose. Ecco, quindi la praticità anche è quello che poi alla fine deve emergere. Irene, allora, tu l'hai visto questo armadio? Sì, sì, fisicamente. E tra l'altro lo voglio. Lo va, immaginavo, lo ecco, ti ha convinto. Irene, grazie intanto, a più tardi, buona domenica ancora. Grazie a voi, ciao Stefano. Ciao, grazie, la saluto perché ho un ospite da Shanghai in questo momento. Gli aggiornamenti sul traffico, poi parliamo subito con lui. Il riposo del guerriero. Ci spostiamo a Shanghai, Mike Robinson, buona domenica. Buongiorno anche voi. Grazie innanzitutto. Allora, devo dare la classifica perché è finito il Gran Premio nel frattempo, nel senso che al primo posto Hamilton su McLaren, poi Vettel, Red Bull al secondo e Webber, ancora Red Bull al terzo, Massa e Alonso sesto e settimo posto. Quindi mettiamo da parte questa cosa, gli italiani saranno poco felici. Ma si sentono un po' indietro, come sono partiti sono arrivati. Allora, Mike Robinson, è vero che è nato a Los Angeles, però ormai sei italiano d'adozione, possiamo dirlo? Sì, sì. 32 anni che abito a Torino, quindi ormai sono italianizzato. Allora, Mike è stato direttore dei centri stile Lancia e Fiat, poi con Flavio Manzoni sei il padre della Lancia Tesis, per raccontare di un'auto particolarmente bella, e adesso sei responsabile del centro stile Bertone. Certo. Mike, io volevo così chiacchierare con te del design dell'automobile, cioè da dove siamo partiti, senza tornare troppo indietro, però volevo tornare indietro di qualche anno, insomma dagli anni 70-80 per arrivare a oggi, e poi il futuro, capire come sta cambiando lo stile, il design e il bello dell'automobile, perché forse oggi più del passato l'auto deve essere bella tutta, quindi dentro, fuori e soprattutto accessibile, cioè anche chi può spendere poco oggi può avere un'auto bella da tutti i punti di vista. Certo, ma il fatto è che negli anni 70, quando io sono cresciuto come un car designer, è un periodo di grande evoluzione sociale, diciamo tutti 68, poi questo è riversato dentro il mondo del car design e facevano degli studi incredibili sull'architettura, ribaltando motore davanti, motore dietro, forma cuneo, eccetera. Quindi è stato un periodo molto ricco di crescita dell'architettura del veicolo. Poi sono passati gli anni e l'automobile è un po' stagnato, facciamo fatica a tirare fuori forma nuova per via delle normative, via degli investimenti, via dei tanti problemi che limitavano la creatività nell'automobile, però oggi per fortuna abbiamo un nuovo stimolo che si chiama ecosostenibilità. Sì, decisamente. E questo ci fornisce un'ottima scusa per spaccare le regole e cercare di spiegare che effettivamente ci potrebbe fare di più. Certo. E andiamo a togliere questo similitudine dell'automobile da una casa a un altro, da una nazione all'altro, gente, come ci somigliano tutti uno all'altro, e noi designer stiamo tifando per opportunità per sganciarci poi le gambe, tirare fuori vetture che non somigliano per niente le automobili di oggi. Ecco, e come incendiare o aprire nuovi parere, nuovi mondi. Ecco, però questi nuovi mondi ecosostenibili, come dici Mike, come saranno? Li stiamo già guardando o non riusciamo neanche a immaginarceli noi poveri mortali che dovremmo solo acquistare poi quelle auto eventualmente, ma non possiamo pensarle? Noi abbiamo visto cose che vuoi essere mani. Infatti, lo so, perché arrivate prima di noi per forza. Per citare un po' di Blade Runner. Però la cosa importante è che ricordare che la maggior parte degli ibridi oggi sono tutti motori banalissimi, normalissimi, con sistemi di recupero di energia che chiamano ibrido. Certo. Però in realtà andare verso una full electric o addirittura un ibrido puro, queste sono le vetture che usano due, anche quattro motori elettrici per pilotare le ruote e il motore termico soltanto per allungare l'autonomia del veicolo. Certo. E quindi prendere un piccolo motore a bicilindro che va avanti 2000 giri costanti, quindi consuma pochissimo, però caricano batterie per portare 600, 800, anche 900 km con un pieno. Ecco Mike, ma veramente riusciremo nel futuro a staccarci da tutto questo, a essere indipendenti dal petrolio, indipendenti, cioè davvero produrre energia per l'automobile, per esempio, almeno per questo, cominciando da questo, in modo davvero ecosostenibile, ce la faremo? Ma la cosa curiosa è che noi vediamo il petrolio come vediamo tutti come nemico al benzinaio, perché ormai siamo a 1500, 1600, certo. Il prezzo arriva a 2000 euro al litro e cominciano a spaventare tutti. E direi non di sì. Non saremo mai a affrontare questo nemico. Ricordiamoci che ogni oggetto plastico che esiste nella nostra vita, pensi quanto plastica esiste nella nostra, sì, vita, dalle bottiglie dell'acqua fino ad arrivare ai sedili automobili, nasce da lì, fino ad arrivare ai frigorifici, certo. È tutto basato sul petrolio. Certo. Quindi mondo senza petrolio vorrebbe dire mondo senza plastica. Certo. Pensi cosa vuol dire mondo senza plastica. Un'auto tutta di vetro, per esempio. Ecco. Di vetro, di ceramica, di no, ceramica di cose, la vedo male. Mike, lo vedo difficile. Mike, per quanto riguarda le forme, invece, verso quali forme stiamo andando? Ma è logico che la forma è sempre una cosa molto soggettiva, perché tutto quello che oggi è vecchio, e quindi stiamo cercando di tirare fuori quella linea che dico, questo è nuovo e rende quello vecchio, no? Pensi dico un nome a caso, la Fiesta, Ford Fiesta nuovo è moderno, poi praticamente è vecchissimo, quindi certo. È riuscito con successo a rendere obsoleto quelle precedenti. Ma non è sempre così, ci sono alcune altre vetture, senza dire nome e cognome, però sì, che il nuovo modello è più brutto di quello vecchio. Cioè, come? Succede anche questo. Allora esiste anche questo, quindi non sempre quando tiri fuori il nuovo modello è per forza più bello, è migliore di quello precedente, certo. E quindi questa è una cosa soggettiva, e ci sono grandi investimenti in queste cose. Però quello che vorrei fare, sì, no, che vorremmo fare nel, sì, mondo dello stile, è sfruttare questo nuovo mondo dell'ecosostenibilità per tirare fuori nuova architettura, anche perché abbiamo vetture che continuano sempre a essere un tre volume, un due volume, un SUV, un MPV, eccetera. Le forme sono stranotto e vorremmo tirare fuori qualcosa di diverso. E allora io sono convinto che se non abbiamo più un motore, perché avere un cofano davanti? Se i motori sono dentro le ruote, il cofano potrebbe sparire. E beh, certo. Tutto quindi avremo delle uova con le ruote. Delle uova o dei siluri o delle cose. Possiamo fare tante strade nuove, no? E sicuramente molto quando vero, un oggetto si sposta dentro l'aria aerodinamica è sempre così importante. Quindi deve sempre avere a che fare con il fattore del freno aria. E quindi più mettiamo i muri, più facciamo benzina spendiamo o energia spendiamo. Certo. Più facciamo un siluro, più facciamo andare in effetti, con l'aria. Certo, in effetti quando cambiano i paletti, che sono in questo caso il motore e un paletto, cambia poi tutto, bisogna rivoluzionare proprio il modo di pensare. È una cosa molto interessante, la quale non avevo assolutamente riflettuto, e grazie per avercelo fatto fare. E Mike Robinson, ancora complimenti per quello che hai fatto e continui a fare, tu e il tuo team, ovviamente, e goditi Shanghai, malgrado appunto come sia andato il Gran Premio. Buona domenica. Grazie. Sì, grazie mille, a voi. Ciao, grazie davvero. Bello e possibile, sicuramente. Continua ovviamente dopo il GR. Vi ricordo ancora il numero verde per giocare alle 11.30 800 24 00 24 e i vostri messaggi al 349 238 6666. Il riposo del guerriero. Alle 11.06 minuti nel riposo del guerriero parliamo di bello e possibile, le cose belle che stanno intorno a noi, le persone belle, come dicevo all'inizio, che ci sono intorno a noi, che ci rendono la vita sicuramente migliore. Prima del prossimo ospite volevo solo segnalare qualcuno dei vostri messaggi. C'è Ale che dice: il design non è solo bello, è bellezza della funzionalità, la forma diviene sostanza essa stessa. E poi mi facevano notare che già Ford nel 1941 creò la Hand Body Car, che era un'auto particolarmente ecologica perché era fatta di fibre di cellulosa biodegradabili derivate dalla canapa e tra l'altro si alimentava per mezzo di etanolo di canapa, e quindi un'auto decisamente ecologica molto prima di oggi. E poi ancora invece c'è Elisabetta che dice che invece che scrive però tutti questi oggetti a basso costo parlano di uno stile usa e getta, le cose belle per amarle si devono desiderare e pagare. Beh, forse è vero che anche il prezzo ha il suo meccanismo psicologico. Lo chiedo a Piero Ferrucci, visto che è psicoterapeuta. Piero Ferrucci, buona domenica. Grazie, buongiorno a tutti. Senta, scusi, prima di parlare del libro, che è la cosa che più mi preme, però questa domanda è emersa così adesso. Il prezzo ha un valore psicologico? Se è troppo basso vuol dire che l'oggetto non è sufficientemente bello? Sì, certamente il quindi prezzo quindi siamo stupidi? Siamo un po' stupidi da quel punto di vista, allora, o no? Ma dipende, no. Forse stupidi è una parola un po' troppo forte, ma io penso che ci sia un'intelligenza estetica, cioè una capacità di percepire la bellezza che può essere ampliata e coltivata, e credo che la bellezza per chi la sa cogliere può essere anche gratis. Ecco, infatti è lì che volevo arrivare, insomma. Quindi noi, insomma, dobbiamo fare in modo che il prezzo non sia un elemento discriminante. Allora, Piero Ferrucci è autore di un libro che ho trovato molto interessante per questa puntata, che è La bellezza e l'anima, come l'esperienza del bello cambia la nostra vita, edito da Mondadori, perché il bello ci fa bene nel vero senso della parola. Ma guardi, io ho fatto un'indagine su un certo numero di persone, ho semplicemente domandato loro che cosa ti succede quando ti trovi di fronte a qualcosa di bello. E qualcosa di bello può essere un film, può essere un paesaggio, può essere una persona, c'è anche la bellezza interiore, non soltanto quella nel corpo, può essere una musica, una poesia, può essere qualsiasi cosa, anche una situazione banale della vita, e le risposte che ho ricevuto sono state veramente straordinarie, perché vedo che la bellezza ci apre, ci fa star bene, ci fa diventare più intelligenti, facilita le relazioni con gli altri, ci guarisce le nostre ferite. E quindi forse la dimentichiamo un po' troppo sovente. Ecco, però lei dice anche che in questo momento della nostra vita, dove un po' si sta banalizzando tutto, no? Con la globalizzazione anche del gusto, il bello forse è più difficile da ritrovare. Ma noi viviamo in un ambiente in cui siamo bombardati da messaggi di tutti i tipi, messaggi spesso anche gridati, perché c'è una grande esibizione dell'intimità, delle emozioni e via dicendo, e quindi effettivamente può essere più difficile sentire la voce interiore, la voce sottile e più delicata della bellezza. Si tratta sempre di coltivare questa capacità. Ecco, ma come si fa a svilupparla e a coltivarla? Senza essere ingannati, diciamo così, da quello dalle informazioni dalle quali siamo bersagliati quotidianamente. Ma secondo me possiamo anche permetterci di lasciarci ingannare. L'importante è cercare che cos'è bello per noi. Sì. E questa è una ricerca completamente individuale, perché bello per una persona può essere una poesia, per un'altra persona può essere un film, per un'altra persona può essere suonare uno strumento musicale, per un'altra persona può essere il volto di qualcuno, e poi allargare queste esperienze, perché la bellezza la possiamo veramente trovare un po' dappertutto, anche in un vecchio cancello, in un muro scrostato, in una lattina usata per la strada. Nelle mie interviste ho sentito anche delle risposte di questo genere. Quindi trovare quasi un animismo, forse, no? Trovare negli oggetti anche una forza d'animo, come se fossero delle persone, degli esseri in qualche modo viventi. Ma certamente. Ecco, Ferrucci, e non crede che questo atteggiamento sia un po' legato anche all'età? Nel senso che quando si è più giovani è più forse difficile vedere il bello in queste cose, mano a mano invece che si va avanti forse lo si cerca un po' in tutte le cose che ci circondano, oppure mi sto completamente sbagliando? Ma dipende, può darsi che dipenda dal stato della vita. È anche vero che i bambini vivono spesso in un mondo incantato. Sì. Un bambino può trovare la bellezza nel pulviscolo che si illumina ai raggi del sole oppure nella forma delle nuvole. Poi questa capacità si perde, ce ne scordiamo. Sì, si perde perché ci sono anche delle direttive sociali, la bellezza, il godimento della bellezza è considerato frivolo oppure una perdita di tempo. Non a caso veramente in tutte le società occidentali vengono tagliati, i primi corsi che vengono tagliati nelle scuole sono quelli dedicati all'arte, e questo è un vero peccato. Certo. Anche perché non ci aiuta certo a migliorare il nostro senso estetico e il gusto del bello, no? Ma la cosa paradossale, è stata fatta una indagine su 25.000 studenti in America molto recente. Sì. E metà di questi studenti andavano in scuole dove veniva coltivato il senso del bello, l'arte, la capacità musicale e via dicendo, l'altra metà invece no. E chi aveva un rendimento accademico superiore del 10%, quelli che avevano anche coltivato il senso del bello, quindi ha anche dei risvolti molto pratici. La bellezza ci fa diventare più intelligenti, più attenti, sviluppa delle parti del nostro cervello che altrimenti rimarrebbero addormentate. E quindi fa diventare ancora più lucente la nostra anima. Direi proprio di sì. Meno male, allora coltiviamolo, è una bellissima cosa questa. Se abbiamo poi, siccome ormai siamo alla ricerca dei dati inconfutabili, no? Per forza dei numeri, se no non siamo mai sereni, perché non si può vivere solo di opinioni, vogliamo anche i numeri. Allora se una ricerca ha stabilito questo, onestamente mi conforta, io lo sapevo anche prima, ce lo immaginavo, però era solo una sensazione. Adesso invece ne sono assolutamente certo e grazie di avercelo detto, Piero Ferrucci, davvero. Grazie a voi. Allora, ricerchiamo ancora il bello, la bellezza e l'anima, come l'esperienza del bello cambia la nostra vita. Cerchiamolo, questo bello è possibile, anche non negli oggetti, come avete sentito, ma anche nelle cose che ci circondano. Qualcuno diceva una lattina calciata per strada in un momento, così, mentre si cammina, la si vede. E la si calcia con amore, però, e non con rabbia, perché sono lì un'altra cosa. Si chiama assolutamente un altro modo. Volevo rispondere anche ai messaggi che sono arrivati per dire che l'armadio di cui aveva parlato prima Irene Privitera è creato dallo Studio Lago. Ecco, questo è il nome che ha così incuriosito questo armadio di stoffa, che è decisamente economico e pratico perché si può cambiare secondo anche il proprio gusto. Gli aggiornamenti sul traffico e poi cerchiamo di rendere belle le nostre case anche esternamente in un modo molto semplice che richiede sempre amore sicuramente, ma senso del bello indubbiamente pure. Il riposo del guerriero. Eccoci pronti con Michela Garbin, credo, giusto? Alla Veneta, Michela. Giusto. Sì, alla Veneta. E mi trovo proprio a Venezia in questo momento, sentirete un po' di vocio di fondo, perché oggi si tiene un incontro tra la nostra associazione milanese Orti in Conca e gli omologhi coltivatori urbani di Venezia che si chiamano Spiazzi Verdi. Allora vi spiego subito, mi rivolgo agli ascoltatori, di cosa stiamo parlando. Parliamo delle garden community, che sono delle comunità di persone che hanno il piacere del verde, cioè del coltivare per esempio l'orto anche sul proprio balcone di casa, anche di chi vive in città, perché quello non la città si dice sempre che faccia mancare il verde, è grigia, questo è un leitmotiv che sentiamo fin da piccoli, invece possiamo far diventare verde la nostra vita. possiamo e come far diventare verde la nostra vita. La mia testimonianza è proprio qui a rendere partecipe tutti gli altri cittadini che possono rendersi la vita migliore, circondarsi di bello, come ha detto chi mi ha preceduto. E il nostro è un esperimento che potrei definire di ecocittadinanza dalle radici, nel senso vero e proprio del termine. Un gruppo di coltivatori, un gruppo di amici, un gruppo di appassionati di botanica, ma anche dalle professioni più diverse, che all'inizio del 2009 si è deciso a far qualcosa per migliorarsi la vita, per riappropriarsi anche del rapporto con la natura, col ciclo di vita delle piante, e anche diventare consumatori più consapevoli grazie alle conoscenze sulla biodiversità. Noi abbiamo cominciato chiedendo alcune sementi a Civiltà Contadina a Bergamo, ce le hanno prestate, abbiamo preso questi semi, abbiamo messi nei nostri semenzai, fatto dei semenzai, abbiamo in qualche caso chiamato dei fabbri per allungare i nostri davanzali, per dare più spazio ai davanzali di città. Ma dai. E da sì, abbiamo stati, ci siamo tutti quanti dati nei piccoli spazi, degli spazi un po' più comodi per mettere le nostre piante. E poi abbiamo da questi semenzai fatto delle belle piantine. Abbiamo cominciato a diffondere dei messaggi per appuntamenti collettivi presso i negozi, bar della zona. La zona è quella del Ticinese di Milano, la zona della Conca del Naviglio, dove c'è un giardino pubblico adiacente alla conca progettata da Leonardo da Vinci. Ecco, scusa, una parentesi sola volevo fare, Michela. Allora, Michela sta raccontando una realtà che è appunto milanese, di questa zona nel Naviglio, una zona particolarmente caratteristica della città. Però le garden community esistono in tantissime città italiane, quindi questo è un esempio, però poi cercateli anche nelle vostre città, ovviamente. Scusa, chiudo la parentesi per capire che non è l'unica realtà. Anche perché un aspetto, diciamo, caratteristico delle garden community è di mettersi in rete. Sì. Così come noi milanesi ci siamo messi in rete con Venezia e con Torino, con l'associazione Rizomi, anche nelle piccole città, nei piccoli centri, siamo stati noi a nostra volta chiamati, contattati, per esempio da Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, ma anche tantissime altre realtà, e abbiamo semplicemente raccontato la nostra esperienza, quindi attivando altre piccole garden community, questo perché questo rende, come anticipavi tu, come dicevate voi, più bella la nostra vita, anche nel piccolo, anche sui balconi, anche ecco, sulle voi, terrazze. Certo, quindi voi insegnate in poche parole i segreti per coltivare il verde e l'orto, ma non soltanto sul balcone di casa, ovviamente, anche se sì, si abita in città. Ma poi si raccolgono i frutti, sono buoni lo stesso, tipo il basilico del balcone di casa mia, è buono? Spesso ci fanno questa domanda, sì, soprattutto perché, a Milano, ovvio, si chiama l'inquinamento, cioè, esatto, le polveri sottili. Beh, posso assicurare che io mi sono nutrita di questo basilico, ma io direi di basilici, perché quando parliamo di garden community dobbiamo sempre tenere presente la biodiversità. Quindi noi, anche se parliamo di aromatiche, di piante che stanno in piccoli spazi, parliamo di basilici a foglia rossa, a foglia fine, parliamo di salvia, sclarea, foglia lunga, parliamo di peperoncini, parliamo di ortaggi, parliamo di pomodori cerochi che sono rossi e molto scuri, parliamo di gialli a forma di pera, parliamo di pomodori verdi come i green zebra. Parliamo di qualcosa che è diverso, e per questo rende la nostra vita più interessante, perché non si limita a quello che ci viene proposto, ma attiva una ricerca, uno studio, principalmente, diciamo, sentendosi motivati dalla ricerca di una maggiore conoscenza nei confronti della natura in senso lato. Ecco, voi cosa fate per i cittadini che si dovessero rivolgersi alla vostra comunità o a quelle appunto come la vostra? Ma noi andiamo, diciamo così, raccontiamo come abbiamo fatto a creare questa nostra garden community, quindi appunto diffondendo, prima preparando i nostri semi, le nostre piante, poi creando degli appuntamenti collettivi, ed infine regalando, all'inizio abbiamo regalato queste piante ai nostri vicini di casa, ai nostri cittadini, a chi è voluto venire. Queste piante sono state tutte coltivate, poi ne abbiamo noi messo da parte, abbiamo selezionato alcune piante nostre, le abbiamo messe da parte per l'inverno, le abbiamo a questo punto riprodotte, quindi adesso noi stiamo lavorando con sementi che abbiamo autoprodotto noi. Ecco, quindi quello che offrite addirittura è la pianta già cresciuta un pochino, non il seme. All'inizio abbiamo fatto proprio, quindi così, è più facile. I cittadini non sapevano assolutamente, certo, come cominciare, certo. Certo, non sapevano come cominciare, quindi noi all'inizio abbiamo regalato proprio le piantine già diciamo dopo un mese e mezzo, anzi, dalla crescita della pianta, in modo che potessero essere subito messe a dimora nei vasi che devono essere di almeno 40 centimetri di profondità, perché per esempio i pomodori hanno un apparato radicale che si sviluppa parecchio, la pianta soffrirebbe troppo. Ma questo, però, per esempio quest'anno, ed è il terzo anno che noi lavoriamo, abbiamo distribuito il 17 di marzo, il giorno dell'Unità d'Italia, abbiamo distribuito delle sementi di peperoncino, perché ormai i nostri aderenti, simpatizzanti, amici sono diventati bravi e sono capaci di far crescere le proprie piantine. Quindi questo è innescato un circolo virtuoso, un circolo positivo, che a noi ha dato molta soddisfazione, perché naturalmente è un esperimento di volontariato urbano e, come dicevate ancora una volta, ha richiesto molto amore e molta passione da parte nostra, che abbiamo strappato dei momenti alle nostre vite convulse di cittadini. Però è bello, insomma, perché dedicarsi a una pianta e farla crescere, vederla crescere, significa prendere del tempo anche per se stessi, per cui immagino che sia duplice soddisfazione, perché poi c'è quella di raccogliere il frutto. Io non lo so, dico sempre col pollice viola, non quello verde, cioè se io tocco una pianta, quella ormai è spacciata, per cui non mi ci avvicino abbiamo più. Abbiamo delle sementi più facili per quelli che noi chiamiamo i pollici rossi e i pollici gialli, oltre ai pollici verdi. Quindi chiediamo alle persone come si ritengono, come si giudicano. Il mio è viola, vedi tu. Viola. Esatto, proprio il peggio che c'è. Proveremo, cercheremo delle sementi adatte. Grazie. Anche i pollici viola. Siccome siete in Conca, io sono sulla ripa di Porta Ticinese, voi importerete le piante già pronte, siamo anzi i frutti. Non c'è nessun problema, perché la natura è generosa. È vero. In questo momento sui miei davanzali ho almeno una quarantina di piante che distribuiremo comunque in un prossimo nostro appuntamento per i primi di maggio. Quindi Bene, no, sto scherzando, invece voglio dire agli ascoltatori, scrivete info@ortinconca.it per avere poi le informazioni anche per eventuali garden community che siano intorno alla vostra città, e quindi poi vi dovrete rivolgere a quelle. Grazie ancora Michela Garbin. A presto. Grazie, ciao. Ciao. Vi ripeto, ho info@ortinconca.it. Davide sta arrivando, eccolo qua. Il gastronauta. Il nostro gastronauta Davide Paolini. Davide, tu ce l'hai l'orto in casa, diciamo sul balcone? Io sì, ce l'ho, c'è anche abbastanza grande, però devo dire che io lo coltivo ben poco. Lo guardo, mangio e devo dire che devo essere sincero, mi piace averlo. Ma qualcuno devo dire che ma qualcuno lo farà per te. Certo, ho scoperto così la bellezza di avere della verdura a portata di mano, e magari anche di cominciarla a scoprire, cioè di cominciare a scoprire come cresce. Cioè, era triste fino a qualche settimana fa vederlo così morto, nel senso che poi all'improvviso vedi che è diventato rigoglioso, ovviamente anche per mano femminile, ma insomma comunque è diventato rigoglioso. Anche la temperatura milanese degli ultimi giorni, che è stata particolarmente calda, diciamo così. Siccome le polemiche sono sempre quelle che gli orti così, chissà cosa mangiamo, perché se respiriamo le polvere sottili, chissà i frutti della terra. Questa è una cosa che mi diverto sempre con chi arriva a casa mia e fa questa osservazione, e mi chiedo, ma quegli ortofrutta che sono sulle strade, con diciamo quelle vetrine sulle strade esposte all'esterno, mi dici tu cosa mangiamo? Ma anche i vigneti sulle autostrade, voglio dire. Ancora appunto quei campi di frutta e di verdura che vediamo passando in macchina, mi chiedo come sono. Certo. Paripatta. Allora c'è anche, secondo me in questo caso c'è, come posso dire, il gusto di averlo a portata di mano, di vederlo crescere, di avere un contatto con le verdure, con le frutte, con queste cose. Quindi credo che ci sia sempre un vantaggio. Certo, ormai il mondo è inquinato e purtroppo dobbiamo convivere col mondo inquinato. Di non inquinato rimane poco, perché anche se andiamo in campagna, magari anche lontano qualche chilometro, sicuramente l'aria non è perfetta. Non è al di fuori di ogni inquinamento, quindi non dico che bisogna accontentarsi, anzi bisognerebbe fare molto di più per avere le cose non inquinate e battersi per avere questo, però mi chiedo, con un mondo così popolato, con delle realtà economiche come sono oggi, è possibile questo? E quindi qualche volta bisogna anche tirare i remi in barca. Anche il discorso biologico, biodinamico, se tanto sono esposti anche questi, i tubi di scappamento all'inquinamento che c'è nell'aria, quindi sì, salvano qualcosa, ma non tutto. Indubbiamente. Non è tutto al 100% perfetto. Senti Davide, oggi parlando di bello, cos'è per te il bello quando si tratta di enogastronomia? Ma sai, la bellezza secondo me è una, diciamo, una componente variegata, non si può dire che solamente l'aspetto estetico. Bello di un piatto e anche chi è attorno, l'ambiente, bello di un piatto è come è presentato, bello di un piatto è anche se il piatto è buono, quindi la bellezza secondo me è il risultato di tante componenti, non è solamente un fatto estetico. C'è molta attenzione alla presentazione dei piatti, più del passato secondo te nei ristoranti per esempio? Ma guarda, io recentemente sono stato in Puglia dove ci sono delle materie prime veramente straordinarie, dove c'è anche una cucina ancora legata molto alla tradizione e quindi piatti veramente intriganti. Ecco, però non c'è, come posso dire, una ricercatezza estetica, e questo secondo me sminuisce un po', perché se un piatto te lo mettono così casualmente e non lo apprezzi fino in fondo. Quindi il primo impatto che noi vediamo quando arriva un piatto in tavola, probabilmente lo vediamo con l'occhio, poi annusiamo e poi mangiamo, quindi sono tre movimenti. E allora, se è deludente il primo, c'è già un modo, come posso dire, negativo. Certo, di porsi. Sono compromessi tutti gli altri. Sì, però è evidente che poi alla fine anche di una persona si dice che è una bella persona, sì. Non solo perché è bello esteticamente, ma per tante altre virtù. Ma ci metti più tempo a scoprirlo. Ci metti più tempo a scoprirlo, però, no? L'impatto è sempre quello. Ci metti più tempo a scoprirlo, perché quando lo vedi, poi lo mangi e poi lo annusi e poi ci rifletti, perché come dice il primo motto del gastronauta, si mangia con la testa, non con la pancia. Assolutamente sì. Tu cosa stai per mangiare invece, così per curiosità? Mi è venuta fame a parlare oggi di... In questo momento non sto per mangiare niente. Se ti dico che avrei voglia di bere un cappuccino in questo momento. Va bene, allora anche quello. Quindi avrei questo, però non ho pensato cosa mangerò. Davide, una domenica faremo dell'arte del fare il cappuccio, perché anche lì ci sono mille scuole diverse. E quindi... Ma io proprio su Radio 24 ho fatto delle battaglie enormi sul cappuccino, che è veramente fatto male in buona parte dei bar italiani, perché c'è poca attenzione. Tutta schiuma e niente latte, ecco, sì. No, oltre a questo c'è proprio poca attenzione ad esempio alla temperatura del latte, che è importante, che dovrebbe essere 62 gradi quando viene servito per avere un cappuccino, non dico perfetto, ma più o meno perfetto. Poi dovrebbe esserci un goccio di caffè freddo prima e poi il caldo, la cioccolata prima o dopo. Insomma, ci sono tutta una serie di cose da tenere presente. Ma poi se c'è un caffè fatto male è evidente che poi tutto se ne fa andare. Sulla schiuma non ne parliamo, deve essere latte compatto, certo. Col cucchiaino devi far fatica a entrarci dentro, questo è il cappuccino. Non quindi, quella roba piena d'aria e basta, no? No, lasciamone perdere, quelle cose lì sono delle... Quando vedo che mi arriva un cappuccino così ho già capito che non lo berrò, perché diventa caffè latte. Esatto. Grazie Davide Paolini, buona domenica. Ciao. A domenica anche Ciao. A te, buona domenica a tutti. Grazie, poi è anche vero che quando ci sono quelli bravi, no, che versano velocemente il latte nella tazza con già il caffè, e ti appare questo disegno. La foglia è la cosa più facile, ma a volte fanno delle cose veramente complicate. Tu dici, ma come fai? Allora già lì parte il bello, perché l'occhio è appagato e a quel punto poi diventa anche buono. Magari non lo è, però no, di solito lo è, però anche se non lo fosse, l'occhio devo dire che è già stato premiato. Il numero verde, perché tra poco giochiamo, 800 24 00 24, per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il riposo del guerriero. 11:34 minuti, il nostro cronometro inizia adesso. Un mistero in 24 minuti. Parte infatti il tempo, 24 minuti per risolvere il mistero, per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. E partiamo ovviamente da 1000 euro, ma più indizi si ascolteranno e più il premio si abbasserà. La risposta può essere un personaggio, oppure una notizia della settimana, o qualcosa comunque di sicuramente conosciuto. Il numero verde per prenotarvi è 800 24 00 24, e questo è il primo indizio. Una donna per sempre esalta l'amore, ma è un lusso e mortifica i sensi. E viva il cielo che ci fa volare, e viva la terra che ci fa sporcare. E viva un uomo nudo quando è carnevale, e viva un sogno di pace splendente. Oriente. E bravo Niccolò Fabi, molto bella anche questa traccia. Oriente si intitola, il primo indizio di questa settimana. Carlo dalla provincia di Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno. C'è il bello intorno a te? Sì, direi di sì. Sì, ma perché stai guardando tipo la tua fidanzata o perché, non lo so, sei seduto? No, su, no, perché c'è una bella giornata. Ah, per quello, è bello il tempo, dicevi, sì, tu, sì. Ecco, io così pensavo ad altro, ma comunque va bene lo stesso. Allora, Carlo, col tempo atmosferico sereno, tu come sei? Comunque sereno oppure mica tanto? No, sono sereno, sono sereno. Vuoi dare una risposta o vuoi un altro indizio a questo punto? No, provo a dare una risposta. Allora, abbiamo 1000 euro per Carlo, vediamo un po', vai. Sidney Lumet. Perché? Perché ha girato Orient Express, il vostro segno sull'Orient Express, Oriente è il titolo della canzone. Ti è venuto in mente così, grazie Carlo. Grazie. Ciao, grazie a te. Come sapete non si scoprirà la risposta esatta fino allo scoccare del 24esimo minuto e quindi Carlo potrebbe anche portarsi a casa 1000 euro, non lo sapremo fino alla fine. Francesco da Brindisi. Sì, ciao Stefano, buona domenica. Anche a te. Allora Francesco, cosa vogliamo fare? Manteniamo i 1000 euro o li dimezziamo? Ma mantengo i 1000 euro. Manteniamo sì. I 1000 euro. Allora, provo a dare la risposta, però dall'Oriente ci dobbiamo spostare in Inghilterra. Ah, perché, quindi, perché non ti è piaciuto il primo indizio? No, l'Oriente è bello, ma anche l'Inghilterra, insomma. Ci provo, insomma. Riguarda un setificio che è situato nel Kent, che sì? Da 37 fa i tessuti per le nozze reali. Le nozze reali, quindi tu, ho capito. Incoronazioni. Certo. Questo setificio ha chiuso i battenti, insomma non funziona più, per cui l'abito di Kate, prossimo matrimonio, non sarà made in Britain al 100%, per cui la seta potrebbe arrivare dall'India o dalla Cina. Ecco, vabbè, del resto. Nel 53. Quindi tu dici... È successo uno scandalo perché mancava un pezzetto, però... Beh, chiaro, questo è chiarissimo. Tu dici partendo poi dall'Oriente perché la seta arriva da lì, ecco. Sì, quindi. Sì. Quindi il tuo viaggio è stato particolarmente interessante, non posso dirti niente, però grazie per questo viaggio che ci hai fatto fare. Buona domenica. Buona domenica. Bravi. Rocco da Milano. Sì, buongiorno, buona domenica a tutti. Sentito che bravi che sono gli ascoltatori? Ho sentito. Adesso tu non puoi essere da meno, ovviamente. Certo, allora, cosa vuoi fare? Avevo pensato, rimango sui 1000 euro. Anche tu, ok Rocco, dimmi. Avevo pensato alla notizia di martedì che è uscita, dove la famiglia reale saudita ha presentato ufficialmente un progetto per la costruzione di un grattacielo, che sarebbe poi il grattacielo più alto del mondo, che pari a circa 1000 metri. Questo è appunto una presentazione ufficiale di questo progetto da costruirsi in Medio Oriente, appunto. Rocco, ma tu avresti coraggio a salire su un grattacielo alto 1000 metri? 1000 metri sì, perché dai, comunque sono tutti ingegneri. Beh, certo, cioè, non è la Torre di Pisa, nel dunque, senso che si spera. Non soffro di vertigini, perciò non avrei grossi. Io immagino l'ascensore, perché di solito sono velocissimi quegli ascensori lì, ti si tappa le orecchie però. Sono 12 minuti di viaggio, sì. È come terreno all'ultimo piano, è come andare nei parchi a tema. Tu posso andare nei parchi a tema, prendi l'ascensore, hai capito? Esatto, ecco. Esatto, sì, sì. Poi dall'ultimo piano premi zero e lo fai scendere velocemente, secondo me è una bella esperienza. Grazie Rocco, ciao, buona giornata. Paolo da Parma, buongiorno. Buongiorno. Ciao Paolo, buongiorno. 1000 metri di grattacielo non è male, meno sono tanti, No, io non ci andrei. Tu non ci andresti però. No, cioè magari ci vado, però vengo giù subito. Beh, allora cosa ci vai a fare? Pensa col vento forte. Deve essere un'esperienza. Guarda, io sono stato sull'Empire State Building e sono venuto giù immediatamente. Che poi non è neanche altissimo, perché no, le torri erano molto più alte, quindi. Allora Paolo, che cosa vogliamo fare? Ancora 1000 euro abbiamo qui, Guarda, io ho un'idea, però ti chiedo il secondo indizio. Ecco, tu dici, è meglio non 500 euro, però più sicuri rispetto a 1000, ma incerti. Eccolo qua. Poi ti dirò la stessa magari no, prima. Magari è un'illuminazione. Sentiamo il secondo indizio. E una Vespa mi porterà. 181 metri Empire State Building. Allora, Paolo, questo era Cesare Cremonini di 50 Special. Era meglio non l'avessi chiesto. l'avevi la Vespa? Tu magari ce l'hai ancora. No, non ce l'avevo mica, no. Allora. No, ascolti, io ti dico la mia prima idea, che era Totti che fa un asta di beneficenza per il Giappone. Grazie Paolo, non posso dire niente, buona giornata. Ciao. Giovanni da Firenze, buongiorno. Buongiorno Stefano. Allora, Firenze, tu di cose. Sarò breve. Questi due indizi mi hanno fatto pensare al nostro Emilio Salgari, o Salgari a dir si voglia. Sì, perché? Perché Oriente, i suoi romanzi. Sì, certo. Bene? E spaziare con la Vespa ha fatto sognare tante generazioni con i suoi racconti, senza mai mettere piede in Oriente. Tu l'avevi la Vespa, Giovanni? Sì, l'ho avuta. Ah, quindi poi a Firenze è pieno, devo dire, anche sì, perché. Sì. Dai, Stefano, io ora mi trovo alle pendici di Volterra. Oh, che meraviglia. È una cosa, prima hai fatto delle domande sul bello, non il bello. Sì, no? Certo. Il bello è anche la semplicità. Come no, soprattutto. Davanti a me Volterra e sono in un mare di verde. Ne abbiamo poi tanta di bellezza, davvero, in Italia. Vero? Sì. Io ieri ero al convegno di magia che c'era a San Vincent, c'erano moltissimi artisti americani e alcuni venivano stati in Italia per la prima volta, chiaramente ne hanno approfittato per vedere le città, no? Ed erano tutti ovviamente particolarmente affascinati. E io dicevo, dovreste avere più tempo, insomma, per scoprire l'Italia, perché davvero pochi giorni è poco. È inutile andare a delle tappe organizzate, bisogna calare e mettere i piedi per terra e muoversi. Sono d'accordo con te, Giovanni, cercheremo di farlo, indubbiamente. Buona giornata. Anche a te, Stefano, buona giornata. Complimenti, insomma, Volterra, perché non l'avessi mai vista, è uno di quei punti da mettere proprio sulla mappa e dire io ci devo andare. Aggiornamenti sul traffico. Un mistero in 24 minuti. Laura, buongiorno, dalla provincia di Rieti. Buongiorno. Ecco, è arrivata al telefono perché era un po' che aspettava. Allora, Laura, che cosa vogliamo fare? Siamo a 500 euro in questo momento. Io chiederei un altro aiuto. Ecco, sì, facciamo così. Andiamo a 300 euro, ma sentiamo il terzo indizio. Le lunghe sconfinate inverni, dolenti e gelidi, ho simulato un invidiabile benessere. Le lunghe tormentate inverni, che adesso volgono al termine, è stata estranea troppe volte. Straordinario Bossa Nova per Carmen Consoli, di pioggia d'aprile. Questo è il terzo indizio. Laura, diciamo che mi sono un po' distanziata da quello che pensavo fosse la risposta giusta, ma la do lo stesso perché è l'unica che so. Beh, certo, va bene. Provo a dire che la Vespa vuole provare a produrre in Oriente. Come tutti, grazie Laura, buona giornata, ciao. Giuseppe da Verona, buongiorno. Buongiorno. Ma eri al Vinitaly la settimana scorsa almeno? No, perché io sono leggermente astemio, a me piace soltanto l'amarone, però attenzione. Ma cosa significa leggermente, leggermente astemio? Uno non beve niente. Mi piacciono i vini buoni. Quindi non sei astemio, sei furbo, è diverso, scusami. Comunque, no, perché è bello in generale, c'eravamo anche noi, voglio dire. No, ma a parte questo, è una bellissima manifestazione. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Il tempo passa. È eccezionale. Comunque, mancavi tu, ma l'amarone c'era comunque. No, guarda, che io lo bevo e solo per andarlo a provare. Immagino. Sei di lì. Allora, Giuseppe, che cosa vogliamo fare? Ma guardami, una confusione enorme, ti dico subito. E non sei contento? Ma è una cosa incredibile. Siamo partiti da 1000 metri, siamo arrivati a un rosso fuoco, non riesco più a connettere. E allora facciamo, respiriamo, prendiamo un bel respiro. Adesso vuoi un altro indizio o vuoi basarti su? Dammi un altro indizio. Vuoi il quarto indizio? Te li sei segnati gli altri tre, però? Ma guarda, sì, ho preso, ci siamo qua in due, cerchiamo un pochino di capire il fondo di questo. Va bene, allora, ecco il quarto indizio, e questo deve proprio aprirti la... Lo diciamo che nessuno ha... nessuno ha indovinato. Ok, diciamo questo, che per adesso la risposta giusta non è ancora arrivata. Siamo a 200 euro in questo momento, e questo è il quarto indizio. Eccolo qui il quarto indizio, Giuseppe, sì, il volo di zucchero. Sì, infatti, il volo di zucchero, però non riusciamo a metterlo proprio a fuoco, non riusciamo a metterlo a fuoco. Sì, dai! No. Quindi qui c'è un qualcosa che ha a che fare con una... un indizio globale, è globale, lo vedo, però non riesco non riesco a leggerlo. Come sensitivi, dicono guarda lo vedo ma non riesco a dirlo, ecco. Riesco a dirlo proprio, è globale la cosa, non è una cosa che rimane in un punto, cioè è condivisa da tutti. Come i bambini, quando gli chiedi sai cos'è questa cosa, i bambini rispondono sempre lo so ma adesso non me lo ricordo, ecco. Sì, non è una scusa per non dirla, Giuseppe. E allora cosa ti devo dire, guardi il tuo amarone, bevilo anche per me, fai qualcosa. Sì, la prossima volta devi bere prima l'amarone, poi telefoni, così la risposta. Così la lingua. Ciao, buona domenica. Ciao, grazie. Maria dalla provincia di Ferrara. Ciao Maria. Ciao. Pronto. Allora, tu cosa vuoi fare? Abbiamo ancora un indizio, se vuoi, oppure la tua risposta. Ma io proverei a dare la risposta. Allora, aspetta, fermiamoci un attimo, sentiamo i quattro indizi scoperti fino a questo momento. Niccolò Fabi di Oriente, 50 special, Cesare Cremonini, pioggia d'aprile di Carmen Consoli e infine il volo, zucchero. Questi i quattro indizi, Maria. Abbiamo 200 euro. Dunque, a me questi quattro indizi mi suggeriscono una notizia che riguarda appunto la vicenda di una 19enne pakistana cui i genitori avrebbero, diciamo, impedito di andare a scuola perché ritenuta troppo bella e corteggiata, e questa, diciamo, questo corteggiamento che riceveva da parte dei suoi coetanei avrebbe potuto mandare a monte un possibile matrimonio che i suoi genitori le avevano organizzato con un possibile connazionale. Ti ha colpito questa storia? Quindi dicevo, sì, poi alla fine la storia ha avuto un lieto fine, poiché sono intervenuti, diciamo, varie persone, anche funzionari di Stato, il console pakistano, per appunto rivendicare i diritti di questa ragazza, che il primo era proprio quello di andare a scuola, certo, il secondo di amare chi, insomma, questo è ovvio. Hai visto che le favole poi a volte si avverano, no? Meno male. Allora Maria, sai che no? Cioè, ti ringrazio molto per questa bella storia, ma la risposta non è quella giusta. Ah, ok, va bene. Mi dispiace. Va bene. Ciao Maria. Ciao. Buona giornata. Ciao. Velocemente. La Vostok 1, 50 anni fa, ha volato nello spazio. Questo il 12 aprile, c'è stato un anniversario importante, ricordato anche da Google. E Yuri Gagarin volò nello spazio per la prima volta, un'orbita intorno alla Terra, e 50 anni fa per questo 50 special. Vostok significa Oriente, ecco, e quindi è il nome della navicella. Pioggia d'aprile perché è successo ad aprile, il volo perché il volo. L'ultimo indizio vi avrebbe sicuramente aiutato, decisamente, ma non vi dico di quale canzone, ve lo dico, sarebbe stata Dalla Russia con amore, per cui ci dovevate arrivare per forza. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Claudia Carusi in assistenza, a Paolo Corleoni in regia, e grazie a tutti voi. Buona domenica da Stefano Gallarini, a domenica prossima.